Farei l'ultima lezione sul linguaggio e per cercare di ricapitolare quello che abbiamo detto e di fissare qualche conclusione provvisoria. Da domani comincerei la parte sull'uomo artificiale e sarà un lavoro duro costruire un ponte fra le due parti del corso, ma ci proveremo. Allora, oggi seguirò come traccio più o meno il primo e l'ultimo capitolo del libro di Paolo Virno, Quando il verbo si fa carne, che è un approccio alla filosofia del linguaggio di questo filosofo, molto interessante, che ha diversi punti di contatto con le teorie degli atti linguistici che abbiamo visto prima, ma anche diversi punti di lontananza. I titoli del primo e dell'ultimo capitolo sono di questo libro che voi capite già subito dal titolo, dice Quando il verbo si fa carne, il sottotitolo è Linguaggio e natura umana. Quando il verbo si fa carne è una parafrasi, come tutti capite, dell'inizio del Vangelo di San Giovanni. In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, e nella versione latina a un certo punto si dice et verbum caro factum est, e il verbo si fece carne, diventò carne. È l'idea della divinità che si incarna, che diventa un essere umano. La divinità però, siccome viene indicata da Giovanni con la parola latina verbum e con quella greca logos, in realtà di fatto potremmo pensare che in qualche maniera coincida con il linguaggio, e quindi potremmo, come già fece Spinoza più autorevolmente di noi, ingannare il signor Ratzinger e usare la parola Dio per indicare un'altra cosa, come Spinoza usava la parola Dio per indicare la natura, noi potremmo usare la parola Dio per indicare il linguaggio. Naturalmente a patto di non prendere troppo sul serio la parola Dio, cioè di non farne un essere assolutamente trascendente. È ovvio che il linguaggio è qualche cosa che insieme siamo noi. Ognuno di noi pensa di essere linguaggio o di padroneggiare il linguaggio o di utilizzare il linguaggio. In realtà nessuno di questi verbi va bene. Noi non siamo totalmente linguaggio, noi non usiamo semplicemente il linguaggio, tantomeno siamo in grado di padroneggiare il linguaggio. Tutti questi verbi, per ognuno di noi, possono essere soltanto dei traguardi, desiderabili o meno, ma noi possiamo tentare di essere il linguaggio, possiamo tentare di usare il linguaggio, possiamo tentare di padroneggiare il linguaggio, ma in realtà sappiamo bene che non ci riusciremo mai. Però non vi ho detto i titoli dei capitoli, quindi. Allora, il primo capitolo si intitola Il parlante come artista esecutore, che potremmo sostituire con la parola inglese performer. L'ultimo capitolo si chiama moltitudine e principio di individuazione. Moltitudine e principio di individuazione. Paolo Virno, oltre ad essere un filosofo del linguaggio, è anche un filosofo politico e quindi ed è stato anche uno dei protagonisti delle lotte, uno dei partecipanti alle lotte sociali in Italia negli anni 70. E un'altra parte della sua produzione è dedicata proprio a questo concetto di moltitudine, che è un concetto antico, non ha fatto niente affatto nuovo, tipico del pensiero politico del Seicento, quindi un termine che è già di Hobbes, di Spinoza, eccetera, eccetera, ma che una parte del pensiero politico radicale nell'ultima parte del Novecento, in questo nuovo inizio di secolo, ha cercato di liberare da una concezione totalmente negativa per cercare di coglierne invece gli aspetti positivi, le potenzialità liberatorie del concetto di moltitudine contrapposto a quello di popolo. Ora, come le due cose, come questo ambito di studi e di considerazione di idee sulla natura e il funzionamento del linguaggio e quello invece, diciamo, della filosofia politica o del funzionamento della società possano connettersi, cercheremo di vederlo oggi, ma sicuramente esse sono connesse nell'opera di Virno ed è per questo che ho voluto fare quest'ultima parte specificamente seguendo la sua impostazione. Ho già usato naturalmente anche nelle lezioni precedenti diversi concetti di Virno, ma oggi voglio farlo in modo più esplicito. Torniamo alla considerazione che facevo prima, alla difficoltà che noi abbiamo, che ognuno di noi ha, a essere il linguaggio, a usare il linguaggio e a padroneggiare il linguaggio. Siccome può essere che alcuni di voi giudichino paradossali queste affermazioni che ho fatto, cerchiamo di spiegarle. Perché non è possibile essere il linguaggio? Che cosa c'è che ci impedisce a noi esseri umani di identificarci totalmente e completamente con il linguaggio che parliamo? Il linguaggio è qualcosa a cui noi siamo molto affezionati, ognuno di noi è affezionato al linguaggio che lui parla. Nel linguaggio ci sono, cerchiamo di vedere la prima stranezza del linguaggio. La prima stranezza del linguaggio è questa. Noi tutti ci capiamo quando parliamo, è vero? Facciamo parte di una comunità linguistica. Non capiamo quando parla un inglese o un russo o un lappone o meglio. Se abbiamo fatto un po' di fatica e abbiamo studiato, o meglio, siamo stati un po' di tempo in questi paesi, dopo un po' magari parliamo l'italiano, prevalentemente, ma siamo in grado anche di capire altre lingue, ma all'inizio ne sappiamo una sola, tranne alcuni casi fortunati in cui siamo esposti fino da piccoli a una pluralità di lingue, per esempio abbiamo un papà e una mamma che parlano lingue diverse, ognuno di noi ci parla con questa lingua e allora ne impariamo rapidamente due e nasciamo già bilingui. Condizione, situazione meno rara di quello che noi pensiamo, ma non certamente diffusa in tutto il genere umano. Possiamo dire che la maggioranza del genere umano è monolingue. Il caso del bilinguismo è non rarissimo, però è comunque un po' eccezionale e comunque non inficia quello che voglio dire, cioè anche se uno fosse bilingue o trilingue o quadrilingue, comunque sia, al mondo c'è una quantità enorme di lingue che io non saprò mai, sarà impossibile che io sappia anche soltanto tutte le lingue parlate in questo momento sulla Terra, e sono molte meno di quelle che si parlavano 100 anni fa, meno di quelle che si parlavano 400 anni fa. Le lingue hanno una dall'apparizione della civiltà occidentale in poi, dell'uomo bianco in poi, l'uomo bianco che si è imposto nel mondo, le lingue hanno cominciato a morire sono state sterminate al pari dei popoli e delle etnie che hanno cessato di vivere. Allora, c'è qualcosa che ci accomuna nella lingua. Io parlo e voi mi capite, voi parlate e io vi capisco, entro certi limiti, ma c'è una comprensione. Chiedo scusa agli studenti stranieri, ma noi siamo qua e parliamo l'italiano, in questo momento facciamo parte di una piccola frazione della comunità linguistica dell'italiano. Eppure ognuno di noi parla un italiano diverso dagli altri. Siete convinti di questo o no? Non parliamo esattamente la stessa lingua. Ognuno di noi ha una scelta dei vocaboli. Prescindiamo totalmente anche dall'aspetto chiaramente performativo, dal tono della voce, dall'accento. La trascrizione letterale delle frasi che io dico fosse trasferita digitalmente e ripronunciata da uno di quei programmi che adesso ci sono e alcuni sono anche molto sofisticati di parlanti sintetici. Voi scrivete una frase e ci sono dei software che ve la rendono in quasi, non proprio in tutte le lingue, forse no. Dubito che ci siano software per lo Swahili, però per la gran parte delle lingue parlate normalmente ci sono. Ebbene, io sono convinto che se la registrazione di una mia lezione fosse ritrascritta e ritradotta e riletta da un software sintetico, e quindi voi non sentiste più il timbro della mia voce, le caratteristiche che ormai dopo un po' avete associato alla mia voce, voi direste lo stesso, questo è caro mia. Sapreste riconoscere lo stesso, se mi avete sentito parlare un po' di volte, purtroppo per voi, cazzo, ormai è un bel po' che mi sentite parlare, c'è qualcosa nella costruzione della frase, nella scelta dei vocaboli, nel connettere, anche nel fare i salti e nel fare le incongruenze, che caratterizza ognuno di noi. Ognuno di noi ha una lingua particolare, i linguistici la chiamano idioletto, ognuno di noi ha un idioletto, idioletto deriva da idiota, idiota non è una brutta parola di per sé, in greco idiotes era colui che se ne stava per i cazzi suoi, se ne stava per conto suo. Idios, Idios in inglese vuol dire, in greco vuol dire proprio, particolare, caratteristico, è l'opposto di koinos, comune, ciò che è comune, ciò che accomuna, ciò che si ritrova uguale in molte persone diverse, ciò che caratterizza una comunità, piccola o grande che sia. Invece l'idios è idios cosmos e koinos cosmos, cioè un mondo individuale, dicevano i greci, l'idios cosmos è un mondo collettivo. Koinos cosmos. Quindi l'idioletto, il dialetto è una variante particolare di una lingua parlata da sottocomunità, linguistiche. I milanesi, un tempo, adesso non più, ma quando c'era ancora il milanese, parlavano un dialetto chiamato milanese. Gli abitanti della città di Foggia, molto più che non i milanesi, parlano un particolare italiano che nessun italiano del nord sarebbe in grado di capire, chiamato foggiano. Gli abitanti di Bergamo parlano un dialetto incomprensibile anche alla gran parte degli altri lombardi, perché ha delle traslazioni fonetiche particolari, eccetera, eccetera, che si chiama Bergamo. Questi sono dialetti, sono piccole la lingua è sempre la stessa. È difficile dire quando c'è una lingua, cioè, sapete che per esempio i sardi parlano una cosa, parlano qualcosa che alcuni considerano un dialetto dell'italiano, altri considerano una lingua molto simile all'italiano ma diversa dall'italiano. Sicuramente i ladini parlano una lingua diversa dall'italiano, anche se molto simile. Le antiche lingue, due lingue che sono non proprio scomparse, ma insomma, il provenzale è praticamente scomparso, il catalano no, perché ancora si parla, diciamo, in Catalogna, ma insomma, per esempio, il catalano e il provenzale sono probabilmente più simili al sardo di quanto il sardo non sia simile all'italiano da un certo punto di vista, perlomeno da un punto di vista lessicale. Quindi non è sempre facile distinguere tra un dialetto e una lingua, ma che cos'è un dialetto è chiaro. Ma ognuno di noi poi, anche se parla la stessa lingua, quindi riconoscibile dagli altri, l'articola attraverso modalità totalmente particolari. Ecco perché ci pare di poter dire in qualche maniera che la nostra lingua siamo noi. Perché non possiamo dire che la nostra lingua siamo noi? Perché noi siamo, ognuno di noi, ha una dimensione che consiste di una serie di altre caratteristiche che non sono linguistiche, che sono collegate con il linguaggio magari, hanno dei collegamenti, ma che per esempio riguardano in modo totalmente extralinguistico il nostro corpo. Ognuno di noi non solo ha un modo particolare di parlare, ma ha un modo particolare di muoversi. È chiaro che la grammatica fondamentale dei rapporti tra le parti del nostro corpo è uguale in tutti gli esseri umani, perché condividiamo la biologia, siamo tutti Homo sapiens più o meno, però ognuno di noi poi cammina in un modo diverso, si muove in un modo diverso, muove tutte le parti del corpo in un modo diverso, ha una gestualità totale del corpo che è diversa. Questa gestualità è riconducibile al linguaggio? Non è linguaggio. Certo, esprime delle cose, io posso capire molte cose di una persona guardando come si muove, a volte credo di capirle e poi mi sbaglio, perché non è semplice, però non c'è soltanto un idioletto, c'è anche un idiomovimento. Quindi noi non siamo solo il nostro linguaggio, siamo anche quell'aspetto del nostro corpo che non è linguistico, anche ammesso che noi vogliamo, e forse è una cosa giusta, sana, ricondurre totalmente il linguaggio al nostro corpo. Non possiamo ricondurre tutto il corpo al linguaggio. C'è una serie di dimensioni corporee nostre, bodily, in inglese, corporel, non so come in tedesco, Körper, però in questo caso non c'è una cosa Leib, da Leib, è più Leib in questo caso, non so se c'è un Leibisches o Leibisches, non so, Körper ce lo fa, sì. E allora, perché i tedeschi sono una lingua particolare, il tedesco ha due parole diverse per dire corpo, c'è il Körper e c'è il Leib, il Körper è il corpo, diciamo, nella... può essere. Perché quando si parla di corpo così in genere, diciamo, corrisponde più alla parola tedesca Leib, che è il corpo vissuto, il corpo dell'esperienza, mentre il Körper è, infatti Körper si usa anche per dire cadavere. Il tedesco pieno non ha una parola specifica per dire cadavere, credo usa Körper, che è uno dei due modi di dire corpo, quindi è il Leib più che altro. Comunque, non mi veniva, poi sono tante poche lingue che sa in russo com'è. Polina, com'è corporale o corporeo in russo? In russo, corporale o corporeo com'è? Corporale? Corporale, corporeo. Com'è corpo in russo? Tiela. Com'è? Tiela. Tiela. E c'ha un aggettivo? Corporale. Cioè che appartiene al corpo, con un prefisso, sì. Complicato questo, ancora più difficile, è sempre indoeuropeo, ma va bene. Allora, c'è una dimensione strettamente corporea che non è del tutto riducibile al linguaggio, ma c'è anche una dimensione mentale che non è totalmente riducibile al linguaggio. È vero che il linguaggio struttura anche il nostro modo di pensare, anche le nostre fantasticherie, addirittura forse anche i nostri sogni. Nei sogni parliamo noi, produci sia noi che gli altri personaggi che affollano i nostri sogni, che poi siamo sempre noi, non c'è nessun altro personaggio nei nostri sogni se non noi, sono tutte proiezioni di pezzi di noi che noi identifichiamo con altre figure conosciute o sconosciute. Ma quindi è vero questo, però è anche vero che non tutto ciò che noi pensiamo si traduce in linguaggio. Noi abbiamo, la nostra mente è istante per istante, momento per momento affollata di una serie di movimenti interni, di direzioni, di intenzioni, di fantasticherie, di pensieri, di ricordi, di anticipazioni, di osservazioni marginali, stupide su cose totalmente irrilevanti dal punto di vista sociale, ma tutto questo abita la nostra mente e ben poco di questi contenuti mentali si traduce effettivamente direttamente in linguaggio. Quindi da un certo punto di vista il linguaggio è un terribile filtro e noi non possiamo dire di essere il nostro linguaggio, noi siamo più del nostro linguaggio. Ognuno di noi è più del nostro linguaggio, perché ha una dimensione corporea e fisica non tutta riducibile a quella linguistica, perché ha una dimensione mentale, un'attività mentale non tutta riducibile a quella linguistica. Possiamo anche dubitare che sia una cosa desiderabile per noi quella di essere il nostro linguaggio. Che cosa saremmo noi se fossimo totalmente e soltanto e semplicemente linguaggio? Ognuno di noi sarebbe probabilmente una cosa insopportabile. Nel caso mio forse in modo particolare, ma insomma, per tutti credo che sia così, che sarebbe così. E sarebbe mostruoso essere identificati totalmente con il nostro linguaggio, con quello che diciamo. Non avere nessuna riserva di extralinguistico. Il linguaggio naturalmente attinge pesantemente a questa riserva di extralinguistico. E questa è probabilmente una delle ragioni fondamentali per cui è necessario che ci sia qualcosa dentro di noi o attorno a noi che sta fuori dal linguaggio. Perché è il materiale a cui il linguaggio può costantemente attingere per produrre nuove frasi, nuove produzioni linguistiche. Se non ci fosse questa cosa, se non ci fossero le mie fantasticherie, i miei pensieri, i miei ricordi non verbali, le immagini che popolano la mia mente, i movimenti e i tic del mio corpo, se non ci fosse tutto questo, il linguaggio sarebbe più povero di quello che è, perché il linguaggio, però, quindi noi non possiamo essere il nostro linguaggio. Ognuno di noi è più del linguaggio. Ma conversamente il linguaggio è più di ciascuno di noi. Non solo perché ci sono altri io, altre persone, altri esseri che parlano la mia stessa lingua e con i quali io entro in contatto proprio attraverso questa lingua, ma per un'altra ragione, perché il linguaggio è qualcosa che ci sfugge continuamente, anche ai più colti, ai più bravi di noi, anche a quelli che sono abituati a parlare da una vita e che lavorano parlando, per esempio i professori, che vivono parlando, che fanno della parola parlata o di quella scritta, anche a gente come noi, anche a me, sfugge il linguaggio, e mi è sempre sfuggito. Adesso dice, vabbè, grazie al cazzo, adesso c'hai l'Alzheimer, non ti ricordi le parole, dice, vabbè, ovvio, sei vecchio. È vero, spesso a volte, questo capita per esempio spesso alle persone bilingui che sono in grado di pensare in due o tre lingue diverse, ma a volte non gli viene la parola nella lingua in cui pensano, però hanno l'altra, eh? Ok, capita anche, è ovvio, quindi vedete, se abbiamo qualcuno bilingue, ma capita anche a me che bilingue non sono, e che pure per una serie di motivi negli ultimi 10 anni della mia vita ho vissuto con l'inglese, vivo con l'inglese in periodi particolari, o che amo molto la lingua francese, per esempio, anche se ci vivo meno, a volte capita anche a me di non ricordare una parola in italiano, di ricordarla in una lingua diversa. Ma non è solo questo. Io credo che a ognuno di voi sia, come dire, capitato. Non sempre noi sappiamo esprimere bene quello che pensiamo. E ripeto, questo capita, non è il rossetto, vabbè, se cazzo, allora dice la casalinga di Voghera, dice il salumiere di via Farini, no, con tutto il rispetto per le casalinghe di Voghera e di tutte le città e dei, come dire, salumieri, non sono soltanto persone che usano il linguaggio in maniera normale, ma anche quelli che ci lavorano col linguaggio, anche quelli, ripeto, che del linguaggio che dovrebbero conoscerlo meglio di altri, che comunque lo praticano, parlato e scritto, in maniera di altri, anche a queste persone, diciamo, l'accoppiamento tra pensiero e parola non è mai dato, è sempre una conquista, è il risultato di un processo mentale e come tale quindi può essere felice o infelice. Può capitare benissimo che io abbia in mente una sfumatura, un qualche cosa che voglia colorare adesso, in questo istante, mentre vi dico, io sento di volervi dire qualcosa e di non riuscire a esprimerla bene, completamente, perfettamente come io vorrei, e darvi, mettere in comune con voi, e io non posso mettere in comune con voi l'integralità, neanche di una piccola parte della mia mente. Voi non siete a conoscenza, diciamo, totale, completa, trasparente di tutto ciò che si nasconde dietro questo ragionamento che io vi sto facendo ora. Ne traspare una parte, spero una grande parte, spero la parte essenziale, ma questo mio ragionamento è pieno di sottintesi, di legami, di cose che io ho, non dico chiari, ma presenti, di cui io sono cosciente, e più ci penso meglio è, come dire, naturalmente. E posso farlo anche, posso fare due cose contemporaneamente, parlare, produrre, continuare a spiegarvi questa cosa, contemporaneamente registrare dentro di me nuove sfumature, nuovi contatti, come un neurone che si stia collegando, che stia emettendo pseudopodi, diciamo, estensioni di se stesso per collegarsi con altri neuroni e costruire altri dendriti, altri legami, altre sinapsi. Esattamente questo, io sto facendo questo adesso, sto sperimentando costantemente nuove sfumature, nuove piccole aggiunte di significato, e non riesco, intanto perché la gran parte dei miei, come dei vostri, come tutti i processi di pensiero avviene, per dirla con il gergo informatico, in parallelo e non in sequenza, mentre il linguaggio è una sequenza, e quindi è chiaro che c'è un collo di bottiglia, ma non è soltanto per questo, è anche perché questi contenuti mentali, questi pensieri devono passare attraverso una specie di misterioso livello prelinguistico di elaborazione, di maggiore chiarezza, prima di poter essere tradotti in, diciamo, linguaggio. E la grande quantità di cose che ognuno di noi ha in testa sempre nello stesso momento esclude di poter fare questo per la totalità dei nostri contenuti mentali. Adesso io parlo solo dei miei processi mentali relativi a quello che vi sto dicendo adesso, poi c'è un'altra parte della mia mente che è impegnata negli scacci che ho avuto mezz'ora fa con gente per telefono, un'altra parte che dice accidentati, proprio adesso mi scriveva chiudere, mi si doveva esaurire la batteria del cellulare e non ho dietro il caricabatterie. Un'altra parte dice però speriamo di arrivare in tempo questa sera a comprare l'acqua, perché se arrivo, cioè ce n'ho 10.000, ma tutte queste le avevamo tolte, ce l'ho in questo momento, come ognuno di noi le ha. Togliamo queste, anche soltanto se mi focalizzo su quello che vi sto dicendo adesso, la mia la mia capacità di verbalizzazione è esigua, quindi io, questa è un'altra delle ragioni per cui ognuno di noi è più di ciò che dice, è più di ciò che dice ed è più di ciò che può dire, ma per delle ragioni analoghe il linguaggio, cioè le possibilità linguistiche di tutta un'intera comunità, di tutte le persone che parlano linguaggio, il linguaggio in quanto tale è più di ciascuno di noi, perché ci sono sempre, se ipoteticamente, se fosse possibile, prendere i metodi contenuti mentali e anche relativamente a un settore molto particolare, e trasferirli nella mente di un'altra persona, per esempio di Polina, o per esempio di Tommaso, per esempio di uno qualunque di voi, che ragiona, che ha una storia diversa dalla mia, sicuramente ognuno di voi sarebbe in grado, probabilmente, di verbalizzare delle cose che io, con questi contenuti, non sono in grado di fare e di verbalizzare. Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'insieme delle possibilità linguistiche eccede me stesso. Quindi non solo i miei contenuti mentali eccedono il linguaggio, ma è anche il linguaggio che in quanto fenomeno e processo collettivo eccede la, diciamo, capacità linguistica del singolo. Ecco perché noi ci illudiamo di usare il linguaggio, ma in realtà non possiamo usarlo, il linguaggio. Certo, il linguaggio serve a un sacco di cose, il linguaggio, io adesso sto usando il linguaggio per comunicarvi delle idee o una linea di, come dire, pensiero. È ovvio, questo nessuno potrebbe pensare che ciò non accade, certo che accade. Ma la dimensione del linguaggio, anche la mia produzione linguistica ora, attuale, ha delle sfumature, dei sottintesi, delle dimensioni che eccedono. Ci sono delle cose all'interno della mia produzione linguistica particolare di questo istante che eccedono la sua dimensione strumentale, cioè il fatto che questa produzione linguistica mia di ora serve a comunicarvi delle cose, e eccede. Il linguaggio è qualche cosa. Ci sono tante cose nel mondo e nell'universo che sono ricche di potenzialità, certo, mica l'unica è il linguaggio. Però il linguaggio è quasi unica, è quasi unica nella sua caratteristica di conservare la sua potenzialità anche nel momento in cui la mette in atto. In generale, quando c'è un passaggio dalla potenza, cioè da quello che si può fare in teoria, nel principio, all'atto, cioè ciò che si realizza di quella potenzialità, è ovvio che in genere la potenza, come dire, il carattere potenziale si perde. Se io entro dal panettiere e sono indeciso se comprare quel bel filone di pane con le olive o una pagnottella di pane pugliese, nel momento in cui sono lì sono di fronte a un, cioè, questa è una potenzialità, io posso fare tante altre, ma nella mia testa, diciamo, ce ne ho due, cazzo, stare qui ho il pane e sto lì, approfitto del fatto che ci sono due o tre persone davanti a me in fila e dico, cazzo, ma cosa mi piacerebbe di più? Ma da lì sono buone, però, ma anche quello pugliese l'altra volta l'ho mangiato, era così buono, cosa faccio? No. Ma è sto lì un minuto e mezzo, nel momento in cui la commessa mi chiede, buonasera, vuole, mi dica, buongiorno, vuole, mi dica, cazzo, io devo decidere, da un momento all'altro, il pane con le olive, grazie. In quell'istante, che cosa ho fatto? Ho ucciso una potenzialità. La potenzialità di comprare il pane pugliese non c'è più, certo, posso dirgli e poi mi dà anche il pane, come dire, pugliese, ma siccome, come sempre, non posso dirgli contro il pugliese, non capirebbe un cazzo quella, quindi devo dire prima uno e poi l'altro. Anche soltanto il fatto di dire prima uno e poi l'altro, nel momento in cui dico una cosa, voglio il pane con le olive, ho ucciso la proprietà del pane pugliese. Poi la posso recuperare, siccome c'ho tempo, dico, no, mi dà anche quello lì, prima anche l'altro, mi dopo tutto il negozio e fallisco, come spesso mi capita nella vita. vita, va bene, cosa che non, no, non mi capita ovviamente questo nelle panetterie, mi capita più nelle librerie che nelle panetterie, ma va bene. Questo è un tipico esempio in cui il passaggio dalla potenza all'atto elimina la potenza, perlomeno in quel breve istante. Nel linguaggio non è propriamente così. È vero che ogni atto verbale, ogni verbalizzazione, è vero che, come già detto, è vero che ogni il pronunciare queste parole di fila, è vero che ogni atto verbale ha ucciso, ha impedito a me di pronunciare delle alternative. Però il linguaggio ha questa strana caratteristica. Non sono morte del tutto, in realtà. Non sono morte perché, non solo perché posso dirvi dopo questa frase anche le altre che avevo vagamente, per questo posso farlo anche quando vado a comprare il pane, è che all'interno di quella frase è vero che ogni volta che pronuncio, nel momento in cui io realizzo un atto linguistico, in questo stesso atto linguistico, nello stesso momento in cui io lo produco, quindi produco una frase, pronuncio una frase, in questa stessa frase rimangono degli echi e delle tracce e delle ondulazioni, delle nuvolette intorno, di potenzialità. Ci sono alcune, almeno, c'è l'eco di alcune delle frasi alternative che non ho pronunciato ma che avrei potuto pronunciare, e posso metterle nell'intonazione della voce, nel ritmo della frase, anche in alcuni gesti che accompagnano la parola. Tanto sono sempre io che parlo, voi vedete sempre me, sentite la mia voce, guardate anche i miei gesti in qualche maniera, la gestualità è compresa, come dire, è una dimensione accessoria ma importante dell'atto linguistico. Il linguaggio è una di quelle cose in cui la potenza non muore mai del tutto, rimane più fortemente che in altro. Quindi io non posso essere il mio linguaggio perché io sono più del linguaggio e il linguaggio è più di me. Io non posso usare il linguaggio, non posso dire che il linguaggio serve solo come strumento, certo che posso usarlo, ma la dimensione di strumento non esaurisce la caratteristica del linguaggio, perché uno strumento è un puro strumento, un martello, un trapano Black & Decker, una centrale idroelettrica, una legge dello Stato. Già una legge, essendo un fenomeno linguistico, è un po' più complicato, ma ci sono aspetti della legge che sono specifici. Servono a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50.000 cose e basta. Esauriscono, è difficilissimo mangiare della pasta asciutta con un martello, vero? Uno si può anche provare, ma insomma, parte che dovrebbe pulirlo bene, ma insomma, diciamo, arrotolare degli spaghetti su di un martello, anche la persona più che fa, martello, sai, a quello, bam bam, dai un chiodo, basta. Posso fare, posso fare altre cose con un martello, posso pure usarlo come strumento erotico, ma insomma è una deviazione, non voglio dire, insomma, è un po' una bizzarria da un certo punto di vista. Potrebbe essere anche molto apprezzata da vari punti di vista, però insomma non, quello è uno strumento, non ci sono cristi, è uno strumento. Il linguaggio non è mai solo uno strumento. È vero che io parlo perché c'è della gente, perché ci sono, ma c'è una dimensione nella produzione linguistica che è irriducibile a quella strumentale. Il linguaggio è sempre più di ciò a cui serve. È sempre più di ciò a cui serve. Nella terminologia di Austin, che ho introdotto le altre volte, non si può identificare anche un enunciato perlocutivo con la sua forza perlocutiva, cioè con gli effetti sugli altri che io voglio eventualmente raggiungere. Quindi io non posso usare il linguaggio, non posso ridurre tutto, non posso ridurre il linguaggio alla sua dimensione strumentale. Il linguaggio è sempre qualcosa di più di uno strumento. Meno che meno io posso padroneggiare il linguaggio. Cosa vuol dire padroneggiare il linguaggio? Vuol dire avere la sensazione, padroneggiare il linguaggio vuol dire avere la sensazione, essere convinto di avere utilizzato il linguaggio nella migliore delle forme possibili, avere espresso il più possibile di ciò che volevo esprimere, tendenzialmente tutti i miei contenuti mentali di quel certo istante, usarlo nel modo in cui nessuna persona al mondo che parli la mia stessa lingua possa mai dichiarare di avermi frainteso. Questo è padroneggiare il linguaggio. Signoreggiarlo, diventare il suo padrone. Il linguaggio è uno schiavo, è un servo che fa tutto quello che io gli dico. Io lo uso per un obiettivo, per uno scopo, e lui fa tutto quello che gli dico e raggiunge, se è un bravo servo, se è un bravo servitore, se è molto efficiente, raggiunge tutti gli obiettivi che io. È mai possibile che il linguaggio sia questo per noi? Che una nostra produzione linguistica sia questo? È mai possibile? No, è mai possibile che esprimere, pronunciare una frase significhi svuotare totalmente la propria mente da ciò che ci avevamo dentro e trasferirla in questa frase che ho detto, in queste parole che ho detto? È mai possibile essere sicuri al 101% che nessuna persona di quelle a cui ho detto quello che sto dicendo mi fraintenderà mai, che abbia capito esattamente quello che io volevo dire, che ci sia una trasparenza perfetta tra i miei contenuti mentali, l'enunciazione di questi contenuti, cioè l'esternazione, l'esteriorizzazione, l'esternalizzazione di questi contenuti e l'effetto sulle menti degli astanti e degli interlocutori. Le prime due domande, la risposta no è già implicita in quello che abbiamo detto prima. I miei contenuti mentali sono sempre, eccedono il linguaggio, è impossibile trasferire in una produzione linguistica singola tutto ciò che in un dato istante, in un decimo, in un millesimo di secondo occupa tutta la mia mente. Proprio perché il linguaggio è un'attività creativa e non strumentale, è impossibile che ci sia una corrispondenza perfetta con uno stato di cose esterno al linguaggio. Quindi non solo è impossibile trasferire l'extralinguistico mentale, ma è anche impossibile trasferire l'extralinguistico oggettivo, mondano, del mondo, in una frase, in una posizione. Ed è impossibile quindi evitare i fraintendimenti, è impossibile è impossibile assicurarsi che ogni mente, ogni corpo degli interlocutori comprenda, legga, si impadronisca, assimili la mia produzione verbale con le stesse intenzioni con le quali io l'ho espressa. L'equivoco è, l'equivoco linguistico non è derivato dal fatto che uno parla male, dal fatto che uno non è capace di parlare, è insito nel linguaggio. Il linguaggio è tanto più ricco, è tanto più, ognuno di noi parla un idioletto, e quindi il mio idioletto avrà qualche cosa che non coincide con il singolo vostro idioletto e con la vostra ricezione del mio idioletto. Voi coglierete qualche cosa e non altro, coglierete qualcosa che magari io stesso non sono in grado di cogliere, saprete percorrere sentieri e fare iniziare, ogni volta che uno parla è come se fosse nella radura di un bosco e di fronte a lui ci sono 2, 3, 4, 5, 10, 50 sentieri diversi. Quella è la frase. La frase, la produzione verbale contiene in sé tutte quelle, nessuno di noi è in grado di imboccare tutti quei sentieri, ma io non sono sicuro che mentre parlo e penso a quel certo sentiero che devo imboccare, che tutti coloro che mi ascoltano imboccheranno lo stesso sentiero, ne potranno imboccare altri, quindi la trasparenza, e quindi è impossibile padroneggiare il linguaggio. Allora, uno dice, ma che cos'è allora il linguaggio? Il linguaggio è qualche cosa che, se voi andate a vedere, non ve la faccio troppo lunga, Virno le dice molto meglio di me queste cose, ma insomma, io non sto usando tra l'altro il linguaggio suo, l'ho fatto, però diciamo l'essenza, quello che sto dicendo corrisponde, credo, come l'ho capito io, alla sostanza, a quello che per me è importante di questo primo, diciamo, capitolo. Virno parte da una osservazione marginale di Saussure nel corso, quando Saussure dice, propone quasi di sfuggita una analogia carica di implicazioni. Dice Saussure, la lingua può paragonarsi a una sinfonia la cui realtà è indipendente dal modo in cui la si esegue. La lingua, quella che Saussure chiamava la langue, quindi il sistema linguistico. Andando un pochino più avanti potremmo dire, la langue è come una sinfonia. Le varie parole differenti sono le infinite possibili esecuzioni di questa sinfonia. La nuova sinfonia di Beethoven sono delle note, delle pagine di note scritte con degli accordi, con delle sequenze, con delle armonie, con delle, sono una sequenza di note. È all'orecchio poco allenato, per esempio al mio, la nona è eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Berlino diretta da von Karajan e quella eseguita dall'Orchestra di Bucarest diretta dal maestro Bertongiu, tanto non so ma così sia, potranno sembrare simili. Ma l'orecchio allenato capisce che si tratta di esecuzioni diverse, che c'è uno strumento che è entrato una frazione di secondo prima o dopo, che c'è una sonorità più alta, che quel violino ha tenuto quella nota un centesimo di secondo, un decimo di secondo in più, che l'impasto che si è formato tra il colpo di piatti e la... Cioè, ci sono infiniti modi possibili di eseguire diversamente una stessa sinfonia, così è la lingua, dice. Perché Virno ha preso questa osservazione su cui poi Saussure non torna più dopo, per cui no? Esattamente perché ci vuole suggerire l'idea che sia impossibile, che sia perlomeno molto difficile ridurre, identificare il linguaggio in una delle dimensioni precedenti, cioè il linguaggio non è la totalità di un essere umano, non è un semplice strumento degli esseri umani, non serve solo per fare qualche cosa, non descrive solo il mondo, no, ma allora che cos'è? E la conclusione di Virno è questa, che il linguaggio è più simile a una performance, a una recitazione teatrale, all'esecuzione di un brano musicale, cioè tutte cose, tutte azioni, quindi azioni, non descrizioni, non azioni mirate. Cioè quando voi andate a sentire la nona di Beethoven, andate a sentire la nona di Beethoven diretta da Riccardo Muti, A che cosa mira Riccardo Muti quando prende i suoi orchestrali, li fa stare lì un mese, provare e alla fine, la sera del concerto, dice, ecco, a noi Beethoven diretta, che cosa vuole fare? Qual è il suo scopo? Ha uno scopo? Vuole fare dei soldi? Forse sì. Cosa vuole? Sviluppare la sua idea di studiare la management come attraverso la sua personale. La sua idea, ok. Lui ha una particolare lettura di Beethoven, vuole farcela, diciamo, conoscere. Ma secondo te vuole commuoverci? Vuole commuovere il pubblico principalmente? Vuole farci vedere come pensano. Non credo che gliene porta un cazzo. Non gliene frega nulla. Certo, ci vuole il pubblico, ci vuole qualcuno, uno che parla solo è un matto, o uno che ha l'auricolare del cellulare ben nascosto nell'orecchio, ma si parla sempre a, diciamo, degli altri, ma è chiaro che ci sarà una dimensione, è chiaro che io voglio convincervi di qualche cosa, ma questa mia questo mio desiderio, questa mia, è l'essenza, è ciò che caratterizza il linguaggio, il mio atto linguistico. Io potrei essere scoglionato oggi, potrei avere i cazzi miei per la testa, però devo fare lezione lo stesso e la faccio. Oggi proprio non me ne fate un cazzo di convincervi, non fate quello che volete, ma che cazzo volete da me? Però ve lo dico lo stesso, perché dico, così dirvi, oggi vi racconto questa cosa, vi parlo di questa questione del, come dire, linguaggio. Ogni scopo particolare collegato con un atto linguistico, non che non ci sia, ci può essere, ma non è il cuore, non è il centro dell'atto linguistico. Si può parlare anche senza avere in mente alcuno scopo specifico, preciso. Parlare è essenzialmente una performance, cioè una azione, l'azione che non ha nessuno scopo concreto, pratico. Adesso io mi sto registrando per cazzi miei, dico, perché evidentemente penso che mi serva, però posso parlare anche senza registrare. Anzi, in genere, quando si parla, vado a comprare il pane, dico buongiorno, vorrei quel pane con le olive, grazie, nessuno mi registra. Buongiorno, vorrei il pane con le olive, l'ho detto, è finito lì, nel momento in cui lo dico non ha lasciato alcuna traccia nel mondo. Parlare non è lasciare tracce nel mondo. Parlare, scrivere è un'altra cosa, certo, una piccolissima parte della produzione verbale viene trasferita su dei supporti chiamati libri, giornali, siti internet adesso, o cose del genere, ma questa è un'infima parte della enorme, smisurata mole di produzione linguistica. La produzione linguistica in generale non ha uno scopo specifico e non lascia alcuna traccia. È una performance. Una performance è esattamente questo. Una performance è una azione fatta per il solo gusto di compierla, perché io ho deciso di fare quella certa, diciamo, azione. Io penso una performance in cui sto per 7 minuti in questa posizione qua. E poi altri 2 minuti sto in questa posizione qua. È una cagata di performance, me ne rendo conto, ma è comunque una performance. Perché la faccio? Che scopo ha? Quando io vado a recitare l'Amleto, che scopo ha? Shakespeare poteva avere uno scopo nello scrivere l'Amleto, certo, ma l'attore, il regista che mette in scena l'Amleto, l'attore che lo recita, che scopo hanno? Vogliono dire, il critico dirà, qui c'è un discorso sulla società, la cosa, tutte robe che riguardano Shakespeare, non il regista di Shakespeare o l'attore di Shakespeare. Quando uno mette in scena una commedia, una tragedia, un pezzo teatrale, quando uno esegue la sinfonia di Beethoven, quando un cantante canta una canzonetta, che scopo ha? Che scopo pratico ha? Nessuno. Non vuole raggiungere nulla. Tutti gli scopi fare soldi, sentirsi bene, farsi applaudire, nutrire il suo amor proprio, tutto questo, certo, ci può essere, ma non è l'essenza della cosa. Potrebbe farlo, la stessa cosa potrebbe essere fatta e sarebbe sempre una performance, essenzialmente una potrebbero farlo persone che non hanno amor proprio, che non hanno voglia di fare, ma che sono spinte da un impulso irrefrenabile a fare quella certa cosa. Le ragioni personali per cui un performer esegue una performance possono essere le più varie, ma non definiscono la performance in quanto tale. La performance in quanto tale è una azione pratica, perché si tratta di cose che si fanno in pratica, non sono teoriche, non sono, ma che non serve a nessuno scopo concreto e non è mirata alla produzione di alcun oggetto concreto. Il mio amico che riprende la mia performance quando sto 7 minuti così e altri 2 così e il pubblico non ne può più e mi tira pomodori marci addosso, il mio amico che fa il video, lui ha uno scopo, fare il video rimane, cioè del materiale magnetico impressionato, quello è la documentazione della mia performance, ma non è la mia performance, è il video della mia performance. Come il testo che io recito quella sera non è la mia performance, è il testo che ho, diciamo, recitato, è qualcosa che preesiste alla performance e rende possibile la performance. Quindi le performance possono avere dei precedenti, esempio il testo o la partitura musicale in un'azione teatrale o in una esecuzione musicale, o possono avere delle conseguenze, la registrazione del sonoro o la registrazione dell'immagine di una certa performance, ma la performance in quanto tale non coincide né con i suoi antecedenti né con i suoi conseguenti. La registrazione la messa in scena dell'Amleto di Shakespeare da parte di Edmund Kean nel 1831 al Royal Theatre di Londra, era 31 o 32, sono dei dubbi, ma insomma, diamola così, eseguita tra l'altro in un'epoca in cui non c'erano strumenti di registrazione né uditiva né visiva, è qualcosa che non coincide con il testo dell'Amleto, e date le condizioni tecniche dell'epoca non ha prodotto alcuna memoria tranne in quella di chi l'ha visto e che magari ha scritto: stasera ho visto Edmund Kean, parlo di un grande attore shakespeariano dell'Ottocento inglese, stasera ho visto Edmund Kean che ha recitato così, così, così, e lui ha scritto delle cose. Ecco la cosa, non essendoci all'epoca né tecniche di ripresa, né video, né audio, noi non sappiamo nulla di Eleonora Duse, grandissima attrice dell'inizio del Novecento e della fine del Novecento, non ci rimane che qualche foto, che qualche sgradita, diciamo, foto di Isadora Duncan, di un sacco di tutti i grandi attori, i grandi performer del passato, sono passati senza lasciare traccia se non la memoria di chi li ha visti e che ci ha raccontato. Oggi noi viviamo, state attenti, noi viviamo in un mondo in cui è facile fare, ma diciamo la performance in quanto tale non consiste né nelle condizioni preventive per fare questa performance né negli eventuali effetti di questo. La performance in quanto tale non ha, quindi è qualche cosa. I greci avevano avevano due, diciamo, concetti, due termini, due, come dire, parole per indicare l'attività anche nobile, bella, eccetera, ma mirata a produrre degli oggetti. C'era la tecne e c'era la poiesis. C'era la tecne, che oggi chiameremo in parte tecnica, in parte arte, l'artigianato, produrre degli oggetti belli da vedere e anche utili da come per esempio palazzi, statue, quadri, quello che noi oggi chiamiamo arte, che i greci chiamavano tecne. La poiesis era invece, quella che noi diremmo poesia, in termini molto vaghi, la poiesis è la creazione di qualche cosa con le parole. Quindi per i greci la parola aveva, ma non era che parlare in genere, era con poiesis, produrre delle poesie, produrre il racconto della guerra di Troia o del ritorno a casa di Ulisse era poiesis, raccontare quant'era bella la luna mentre mi manca l'amata era poiesis, celebrare i vincitori delle Olimpiadi di quel certo anno, quanto erano bravi, eccetera, era poiesis, erano le varie forme di poesia, epica, lirica monodica, lirica corale, eccetera, eccetera. Non parliamo del teatro che viene molto dopo, diciamo, queste sono le primitive cose. Quella è poiesis. In un'epoca in cui ancora non c'è la scrittura, la poiesis può essere però, come dire, reificata in un oggetto, perché basta stabilire un testo e impararlo a memoria, più o meno, e tramandarlo oralmente. L'Odissea e l'Iliade, che sono state scritte per la prima volta 7 secoli prima di Cristo, ma erano recitate da ben prima che si inventasse la, diciamo, scrittura, sono degli esempi di questo. Bene. In realtà il linguaggio non è né l'una né l'altra cosa. Il linguaggio non è tecne e non è poiesis. Non è tecne perché non è una attività mirata a uno scopo concreto e preciso. Può avere una pluralità di effetti il linguaggio, ma in quanto tale io posso parlare per commuovere la gente, per informare una singola persona, per fare una domanda, per mandare a fanculo un'altra persona che mi sta sul cazzo, per dire quanto era bravo Wojtyła e quanto è stronzo Ratzinger, per dire che amo Berlusconi e che verrò in Calario alla Troia. Posso, cioè, tutti questi sono, cioè, voglio, ma il linguaggio in quanto tale non ha nessuno scopo. Il linguaggio in quanto tale è una performance. Io parlo ciò che spesso ci rimprovera, no? Dico, ma tu parli perché hai la lingua in bocca. Ma questo è il linguaggio. Si parla perché si ha la lingua in bocca. E perché si ha questa possibilità di accoppiare suoni con significati che è data, diciamo, negli esseri umani. Parlare in quanto tale è sempre un parlare non mirato ad alcuno scopo e neanche alla creazione di un oggetto verbale. Parlare per creare un oggetto verbale, la poiesis, è già una sottocategoria, non esaurisce gli scopi complessivi e totali del linguaggio. Ma che cosa è allora il linguaggio? Beh, il linguaggio è principalmente una forma di praxis, di azione, praxis. Il termine greco è praxis, quindi non è tecne e non è poiesis, ma è praxis. Parlare, produrre eventi linguistici è fare delle azioni in linea di principio disinteressate, cioè non orientate a costruire una sedia, raccontare la storia della guerra, diciamo, di Troia. Certo, la guerra di Troia si racconta con lo strumento linguaggio, ma il linguaggio in quanto tale non ha come unico scopo raccontare delle cose. Può servire per raccontare, può servire per chiedere informazioni, può servire per mandare a fanculo la gente, può servire per fare un sacco di cose, ma tutto insieme non si può identificare con nessuna di queste, e quindi è nella sua natura, nella natura del linguaggio c'è quella, è quella di essere una attività pratica, una praxis. vincolata dalla necessità o dalla intenzione di costruire alcunché. Il linguaggio non è prodotto con l'intenzione di lasciare delle tracce. Quando il linguaggio, quando vengono fuori delle tecniche in grado di fare questo, cioè in grado di fare in modo che il linguaggio lasci delle tracce, certamente questa è sempre una produzione linguistica, ma è una dimensione in più che si aggiunge dopo, tanto è vero che non tutte le culture umane hanno conosciuto tecniche di trasposizione su supporti fisici, concreti e relativamente stabili. Le parole parlate, non tutte le società hanno conosciuto la scrittura, anzi la gran parte delle società, dei raggruppamenti umani che si sono susseguiti dalla nascita di Homo sapiens in poi non ha conosciuto la scrittura. La scrittura esiste in una parte importante di intelligenza umana, ma da non più di 5.000 anni, non prima non c'era. Quindi, eppure l'uomo ha sempre parlato, da quando c'è uomo, c'è. Quindi, attività di questo tipo è una praxis. Ora, qual è per i greci? C'è un altro esempio per i greci, dico, non per oggi. C'è un altro esempio per i greci classici di attività non mirata a produrre degli oggetti, non mirata a lasciare dei ricordi, ma fatta per il puro scopo di farla, o per vivere meglio, per vivere bene, per realizzare la propria essenza umana? Voi pensate che ci sia? Che i greci antichi pensassero che c'era un'altra attività di questo genere? Disinteressata, che potevano fare solo gli uomini liberi, non potevano fare gli schiavi, e neanche le donne potevano fare, perché avevano dei pregiudizi un po' maschilisti, ma nei limiti, cioè se uno era un uomo, era un maschio, ed era un uomo libero, faceva una azione, ad Atene, a Sparta no, ad Atene faceva questa altra forma di praxis. Qual era questa forma di praxis? Votava. No. Molto più complicato, però ci sei vicino, faceva la politica, la gestione della città, la polis, l'uomo libero, secondo Platone che non gli piaceva tanto, secondo Aristotele che gli piaceva da un pochino di più, anche se con certi limiti pure lui, nell'essenza dell'uomo libero c'è un'altra attività che è pratica, che non lascia tracce, perché cambia in continuazione, tu ti rinnovi, che consiste nel mettersi insieme, discutere e decidere che cosa, quali sono le cose migliori da fare per il bene della, diciamo, città. Attenzione, anche questa non è una attività di tipo tecnico, non c'è nessuna regola in questa attività, non c'è nessuna regola se non quella che alcune cariche sono elettive. La questione della votazione, ti ho detto di no, perché noi siamo abituati nella nostra cosa a identificare la democrazia, la politica, con le elezioni. I greci, gli ateniesi, che poi c'erano solo ateniesi e le città in cui erano esportate il loro, come dire, modello, la isonomia, democrazia era una brutta parola per loro, la isonomia, cioè l'uguaglianza di nomos, diciamo l'uguaglianza di tutti i cittadini maschi e diciamo liberi nella gestione della cosa pubblica, della res pubblica, dicevano i latini, avrebbero detto i latini successivamente, non si realizzava soltanto votando. Alcune cariche politiche in Atene erano elettive, molte altre non erano elettive, erano estratte a sorte, che pensiamoci bene non è una cosa così stramba, come potrebbe sembrare, perché è insito nel meccanismo elettorale un qualche, non solo una qualche possibilità di broglio, ma una qualche possibilità di corruzione. Voi vedete bene anche nelle democrazie più consolidate, non dico nella nostra, nella democrazia italiana, così democrazia che è molto giovane, eccetera, eccetera, ma anche in altre democrazie c'è sempre questa possibilità di corruzione, di comprarsi i voti della gente, di promettere le cose, cioè, i voti, di promettere questa cosa, insomma, è questo. Tu vieni da posti in cui sappiamo che è il pane quotidiano, ma anche qua in Italia, non solo al sud, dappertutto, certo. Effettivamente un meccanismo come l'estrazione a sorte, che apparentemente non è poi così, cioè tu fai un elenco di persone, questi qui sono tutti eleggibili, tutti possono, queste persone qua, queste 1000 persone possono, ognuna di queste potrebbe diventare questore. Invece di fare che uno fa campagna elettorale, no, eleggete me, no, io sono più bravo, no, io quindi ho là. Mescoli, ti fa una sorte, chi è uscito? Pinco Pallino fa il questore. Per 5 anni di fila lo togli. Non è una roba sbagliata, cioè è la sorte, è sempre un meccanismo egualitario, perché assicura a tutti le stesse condizioni di partenza, no? E quindi, ma questo è un dettaglio, diciamo. La cosa importante, quella che volevo mettere in luce, è che c'è un legame, quindi, molto forte tra il linguaggio e la politica, perché sono entrambe, perlomeno a partire da un certo punto in poi, non è sempre stato così. Anche in società, ci sono molte società orali in cui non c'è un meccanismo del genere, in cui il bene o le scelte della cosiddetta cosa pubblica vengono affidate a personaggi singoli, ci si affida al re, non al capo tribù, ma insomma proprio a... Quindi diciamo molta della politica, non è che la politica autoritaria, non è che, come dire, l'uomo, non so, Rousseau ha detto, è scarso da questo punto di vista, non è che l'uomo in condizioni, virgolette, naturali o prima dell'avvento della cosiddetta civiltà sia sempre buono, ugualitario, eccetera, che soltanto dopo viene eventualmente la questione del potere. Cioè, in una qualche misura una dimensione di potere è implicita in ogni organizzazione di raggruppamenti umani, anche molto piccoli. E non è detto che questa gestione del potere sia ugualitaria e affidata a tutti i membri di una, come dire, comunità. È che molto spesso è vero però che in condizioni particolari, per esempio in gran parte delle, non in tutte, ma in gran parte delle società nomadi e non agricole, la dimensione delle decisioni che diciamo riguardano tutti, della cosa pubblica, la politica, diciamo, per dirla in termini moderni, rappresenta una frazione molto piccola, molto esigua della attività del gruppo. Gran parte dell'attività del gruppo viene spesa nel procurarsi da mangiare o nell'assicurarsi delle condizioni di base, e ci sono poche regole introiettate che non hanno bisogno neanche di essere rese esplicite. Quando gli uomini bianchi, quando gli occidentali, insomma, arrivarono nel continente americano ed entrarono in contatto con le popolazioni nomadi del Nord America, non con le grandi civiltà strutturate del centro del Sud America, il Maya, gli Aztechi e gli Incas, ma diciamo quelli che poi si chiamavano gli indiani, insomma, i pelli rosse, che erano società in gran parte nomadi, eccetera, erano tutti che erano così, non conoscevano l'agricoltura, erano più o meno quasi tutte nomadi, e non c'era praticamente struttura politica. Ogni tanto facevano qualche assemblea, c'era l'uomo medicina, cioè lo sciamano, lo stregone, diciamo, che era una sorta di autorità, virgolette, religiosa, e il cosiddetto capo tribù non era una carica costante, fisso, stabile, era uno che veniva eletto quando c'era da fare una guerra, diceva andiamo a comprare, ci sono questi paio, paiut che ci passano i marroni, dicono i Sassiu. Bene, facevano l'assemblea dei guerrieri, si eleggevano un capo, e poi magari finita la guerra rimaneva lì perché era una specie di onorificenza, che aveva il casco di penne più bello e faceva più casino in battaglia, rischiava anche di più perché andava sempre avanti lui, eccetera eccetera, ma non era un capo politico nel senso, cioè non è che la politica sia in quanto tale una dimensione presente in tutte le società umane, certamente da un certo grado di complessità in poi non c'è diciamo società strutturata, quindi non c'è civiltà senza, come dire, politica, ma ci sono moltissime civiltà, moltissime società che non hanno uno Stato e neanche un embrione di Stato. Cioè, i Pelle Rosse degli Stati Uniti, erano chiaramente società senza il suo Stato. E molte società, alcune società polinesiane erano anche società così. Non certamente quella delle Hawaii, in cui c'era un re, cioè sono varie diverse, diciamo, tradizioni, ma dove c'è e dove si esprime nel modo più chiaro, anche l'attività politica è una prassi molto simile a quella linguistica. Fare politica vuol dire compiere delle azioni dentro un certo ambito, certo, con qualcosa che in senso lato potremmo chiamare scopo, ma dire lo scopo della politica è quello della buona gestione degli affari comuni è una tautologia. Ma quali sono le regole? Ci sono delle regole generali, per costruire una statua, l'attività dello scultore ha un fine ben preciso, costruire una statua. Per fare ciò deve dare delle martellate, le darà in modo diverso per fare emergere la figura di Zeus o quella di Atena o quella di Apollo, ma ci sono sempre delle regole derivanti dai materiali che usa. Se usa uno scalpello e un martello metallici, sono le qualità fisiche della lama, dello scalpello e del marmo, del carbonato di calcio di cui è costituito la materia prima, che fanno sì che una martellata data in un certo modo produce o no l'effetto, come dire, desiderato. Nello stesso modo anche la poesia ha delle regole, sempre in queste culture qua. Per una serie di motivi, costruire una sequenza di parole che poi racconti una storia in modo tale che questa possa essere ricordata da tante persone che indipendentemente l'una dall'altra la raccontano più o meno uguale, implica non mettere le parole una dietro l'altra, implica costruire delle strutture metriche con dei versi, perché si sa che almeno chi deve ricordare sa che se ha un esametro ci devono essere 6 piedi, 6 metri, quindi 6 accoppiate o triplette di sillabe messe in un certo modo, lunghe o corte in un certo modo o con l'accento in un certo altro modo. Nel mezzo del cammin di nostra vita, 11 sillabe, gli accenti cadono su seconda, terza, sesta di nostra vita e decima, quello è obbligatorio. Seconda, sesta e decima, o seconda, settima, o terza, sesta, insomma dipende, sono varie varianti nelle legazioni italiane. Ci sono delle regole per fare la poesia. Noi oggi sappiamo che dopo il Novecento noi facciamo la poesia libera, ma insomma anche nella poesia libera ci sono delle regole molto più generali che uno non può esplicitare, ma nella poesia per quasi tutto il tempo in cui c'è stata poesia in tutte le diciamo, società c'è sempre stato un metro, quelle sono regole, no? Se io devo fare poesia in endecasillabi, non ci sono critiche sulla endecasillabi, se devo fare un sonetto sono 4 e 4, 8 e 6, 14 versi distribuiti in 4 quartine e 2 terzine con le rime in un certo modo, o alternate, o baciate, o a cazzo, ma devono essere così, non posso dire, dico solo il cazzo mio, no, se fai un sonetto devi fare così, no, faccio poesia libera, va bene, piacere, mi chiamo caro mia, ma hai fatto un'altra cosa, non hai fatto un sonetto. Ecco, allora, quindi nella politica come nel linguaggio non ci sono regole da questo punto di vista. perché non c'è uno scopo preciso, non devo costruire qualche cosa, un oggetto, non devo lasciare un ricordo, non devo creare un'opera e né devo costruire un oggetto fisico. Faccio qualche cosa che è transitorio, che è... Che cosa potremmo dire quindi da questo punto di vista del linguaggio? Che il linguaggio quindi è un'attività ambigua. Sia la poiesis che la tecne sono attività che hanno un percorso preciso. Nascono all'interno dell'uomo, nella mente dell'uomo, e vengono trasferite all'esterno dell'uomo. Creano qualche cosa che rimane, la statua di Zeus, l'Iliade, l'Odissea. Tecne e poiesis collegano l'interno con l'esterno, ma è chiaro il punto da cui partono, è chiaro il punto a cui arrivano. Nascono totalmente all'interno degli esseri umani, finiscono totalmente all'esterno. Vero o no? Non è difficile, eh? La statua di Atena, di Fidia, non ci sta più nella mente di Fidia, una volta che Fidia ha finito di scalpellare, di dare i suoi cazzo di colpi e aver costruito dal marmo, fatto emergere questa figura. Una volta che uno ha composto uno, chissà quante persone, una volta che un tot di persone hanno composto l'Iliade e l'Odissea, sono quelle, e le reciteranno sempre uguali e stanno all'esterno degli esseri umani. Dove sta il linguaggio? Dentro gli esseri umani? Dentro di noi? Fuori di noi? Possiamo dire chiaramente se il linguaggio sta dentro o sta fuori? Mi pare difficile. Non possiamo dire che sia tutto fuori. Certo, io parlo adesso, sta fuori, sto parlando, ma se non avevo pensato a cosa cazzo dirvi, non c'era nulla. Quindi un po' fuori deve stare, ma deve stare anche un po' dentro. Casino, complicato. Dove sta? Beh, fortuna che abbiamo il linguaggio e quindi possiamo dire, possiamo inventarci, possiamo riconoscere che il linguaggio non sta né tutto dentro né tutto fuori, né tutto all'interno né tutto all'esterno degli esseri umani, ma abita una zona intermedia. Vuol dire che c'è una zona intermedia che non posso dire se è dentro o se è fuori, o che posso dire che è mezza dentro e mezza fuori se voglio, ma all'interno di questa zona non sono mai in grado di dire dove sta il confine tra l'interno e l'esterno. Il linguaggio quindi è, pensateci bene, come la politica. Anche qui l'analogia è forte, la politica in senso è, non pensate alla politica del carcere, di Consiglio, pensate alla attività generale di una società che contratta, negozia, discute le cose migliori da fare per tutti. Magari non c'è in questo momento, però c'è stata, ci dovrebbe essere, ci sarà, insomma, la politica in questo senso. Anche la politica è qualche cosa che abita una zona intermedia, perché e poi certo la politica ha degli effetti che sono tutti fuori dell'uomo, le leggi, produzione di leggi, ma poi queste leggi hanno degli effetti nelle azioni, va bene, ma modificano la mente delle persone poi. È partita dalla mente di alcuni, da una certa discussione che più la società è democratica e maggior numero di persone ha coinvolto, quindi anche la politica è un'attività che occupa una zona intermedia tra l'interno e l'esterno, non è chiaramente se io parlo della psicologia, l'attività mentale umana, occupa soltanto l'interno, poi genera delle cose esterne, cioè, ma l'attività mentale, descriviamo l'attività mentale degli esseri umani, c'è un aspetto neurofisiologico, cervello, le varie cellule, eccetera, c'è un aspetto di funzionamento mentale con tante teorie diverse, soprattutto all'interno degli esseri umani. Ma ci sono tante attività e il linguaggio è la più importante di queste, che non possiamo dire se stanno dentro o fuori. Quindi ci sono attività che stanno in una zona intermedia tra l'interno e l'esterno. Se andiamo a guardare nella letteratura, nel senso nei libri di psicologia, vediamo che ci sono stati psicologi che hanno parlato di cose molto simili a queste attività, a queste dimensioni ambigue che stanno attualizzando il cervello. Per favore, ragazzi, mi dici, per favore. Lei? Allora facciamo una pausina ora. Vi dico solo il nome. Allora, questo personaggio si chiama Donald Winnicott, W-I-N-N-I-C-O-T, Donald Winnicott, e nella sua elaborazione, Winnicott ha descritto degli oggetti o delle attività, non si capisce bene, insomma possono essere uno che l'altro, che lui chiama oggetti transizionali. Ne parleremo un po' meglio quando riprenderemo, dopo la pausa, quando ci saremo ripresi tutti io e voi, e Virno propone di leggere il linguaggio più o meno come un oggetto transizionale.